Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, sono le 12 e 12 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di condominio, della riforma del condominio, e siamo certi che avrete molte domande da sottoporci. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Cercheremo oggi di affrontare i primi argomenti relativi alla riforma del condominio, anche perché già vi annuncio che saranno 4 i giovedì dedicati alla riforma, e quindi avremo tempo e modo, Salva Danaio avrà tempo e modo di andare a fondo in ogni tematica legata a questa riforma. Oggi cercheremo di capire qualcosa di più in relazione alla figura dell'amministratore, la sicurezza nei luoghi, anche soprattutto nei luoghi comuni, e poi tutto ciò che è relativo alle barriere architettoniche. Poi vedremo anche quali saranno le vostre domande, i vostri dubbi, le perplessità proprio in merito a questi temi. Come sempre ci facciamo aiutare da esperti del settore. Allora io saluto, sono collegati telefonicamente con noi, Pietro Membri, presidente nazionale dell'ANACI, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. E saluto anche Francesco Burrelli, che è il vicario nazionale dell'ANACI. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io vi ribadisco i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Prima però andiamo a vedere che cosa succede sui mercati. E allora, fin dalle prime battute, l'Europa è molto cauta quest'oggi. Ci sono ovviamente appuntamenti importanti attesi dai listini. Francoforte in questo momento guadagna uno 0,15%, Parigi lo 0,33%, Londra è piatta, mentre Piazza Affari è negativa, cede uno 0,35% in questo istante. Attesa alle 13 la decisione della Bank of England sui tassi, si attesa per le 13.45 la decisione della Banca Centrale Europea, anche se non dovrebbero esserci sorprese. Poco dopo però, in conferenza stampa, il presidente Mario Draghi potrà fornire indicazioni utili sull'andamento dell'economia per quel che riguarda il vecchio continente. Dagli Stati Uniti all'indomani del Beige Book, oggi per oggi alle 14.30 è atteso il dato relativo ai sussidi di disoccupazione, per capire un po' come si sta muovendo il mercato del lavoro americano. A completare questo quadro possiamo dire che continua la correzione per quel che riguarda i listini asiatici. Questa mattina il Nikkei ha chiuso con una flessione dello 0,85%, anche influenzato dall'andamento negativo di Wall Street. Sul listino principale, velocemente, il miglior titolo in questo momento è Buzzi Unicem, guadagna il 2,16%, ma in evidenza per tutta la mattinata Telecom Italia, più 2,09%. Questo grazie soprattutto a un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore di uno dei soci, Fossati, che ha dichiarato di voler conservare la propria quota, che è poco al di sotto del 5%, e ha dato un giudizio positivo allo scorporo della rete. In fondo al listino invece troviamo Monte dei Paschi, meno 4,65%, giù anche Fiat, che cede il 2,92% in questo momento, e risente delle valutazioni di Morgan Stanley, degli analisti di Morgan Stanley, che ritengono desiderabile, così scrivono, un aumento di capitale tra i 2 e 4 miliardi se Fiat proseguirà nel piano di salire al 100% di Chrysler. Velocemente, euro su dollaro, 1,31,17 il cambio in questo istante. Chiudiamo la parentesi relativa alle borse, ai mercati finanziari, e mandiamo la nostra scheda. Attesa e discussa come una rivoluzione, il 18 giugno entrerà in vigore la riforma del condominio, che cambierà le regole della casa comune di tanti italiani dopo più di 70 anni. Le assemblee di tutta Italia, spesso già complicate e talvolta un po' burrascose, dovranno fare i conti con nuove maggioranze in assemblea, che in alcuni casi potranno beneficiare di quorum ridotti, ma che in altri casi renderanno più difficile prendere le decisioni sulle innovazioni e sulle riparazioni straordinarie. Cambieranno le regole per la tenuta della contabilità, con l'obbligo dell'utilizzo di un conto corrente condominiale, la riscossione delle spese nei confronti dei morosi, il conteggio dei millesimi, la gestione del riscaldamento autonomo e di quello centralizzato. Un punto centrale, poi, è quello che riguarda la figura dell'amministratore. Cambiano infatti i criteri per la nomina e la revoca di questa figura. La riforma chiarisce inoltre con più precisione quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità. Ricoprire questo ruolo sarà più difficile per personaggi improvvisati o poco competenti, molte le mansioni che necessitano di una precisa formazione. Si va dalla cura dell'anagrafica condominiale alla gestione delle spese, dalla tenuta dei registri all'obbligo di presentare ai proprietari la contabilità con la rendicontazione, che dovrà seguire dei precisi criteri di trasparenza. Le 12:18 minuti, vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Alcuni sms già sono arrivati perché, come dicevamo, questo è un tema molto caldo e che ovviamente riguarda tutti noi che viviamo in condomini, in palazzine, e abbiamo a che fare ogni giorno con persone e famiglie diverse dalla nostra cerchia familiare. Allora, io però prima di tutto vorrei chiedere al presidente Membri come giudica questa riforma, che era molto attesa e che è arrivata, non diciamo al termine di un travaglio abbastanza insomma imponente. No, direi che la riforma ci voleva, perché 70 anni è la vita di una persona, pertanto sono cambiate molte cose. Però riguardo all'amministratore, nella scheda lo evidenzia bene. Diciamo che la riforma, pur non riconoscendo questa nuova figura, però le dà talmente compiti e responsabilità. Sì. E capacità di stare ai tempi con la formazione. Pertanto il futuro di questa attività, di questo professionista, è dato dalle sue competenze. Infatti l'amministratore futuro dovrà avere il titolo di studio, dovrà aver fatto un corso di formazione, mantenere la formazione poi nel tempo con i crediti formativi, cioè ha dei impegni professionali e di acquisizione delle competenze molto pregnante, molto diciamo previsto dalla riforma, e poi previsto anche dal lavoro che lui è chiamato a fare. Perché i motivi di una revoca sono moltissimi, ma certo, non sono dati da operazioni diciamo non leggibili. Cioè la riforma prevede che se l'amministratore non fa alcuni adempimenti, anche un solo condomino può prevedere la sua revoca. Pertanto ecco che la formazione e l'aggiornamento professionale e la qualità del servizio che occorre dare alla nostra clientela, cioè ai condomini, è prevalente su tutto il resto. Sì, ma io diciamo più in generale volevo capire se secondo lei questa riforma, che comunque leggendo un po' qua e là lascia aperti dei punti e magari non chiariti alcuni aspetti, se facilita comunque la convivenza non solo tra ovviamente i condomini, ma anche nella relazione tra condomini e amministratore. Se diciamo, se lei ne dà comunque un giudizio sostanzialmente positivo, se la promuove? Sì, no, nel suo complesso noi la promuoviamo, certamente. Ci sono dei lati oscuri, cioè lati da interpretare, alcuni articoli che sono sempre, cioè noi facciamo le leggi che non sono sempre molto chiare. Questo forse è una legge, una riforma che è stato oggetto magari di alcuni compromessi e ne sono nati delle difficoltà interpretative, ecco, tipo il fondo di garanzia per operare, per realizzare le opere straordinarie. Anche questo era una iniziativa forse magari sollecitata da non da noi certamente, anzi noi abbiamo dato un consiglio negativo, perché creare questo fondo sarà molto difficile e ne varrà che in questo periodo non si faranno più opere straordinarie. Beh, staremo a vedere, insomma, certo, il periodo è difficile per tutti. Entriamo subito nel merito perché arrivano sms, ci sono già le telefonate degli ascoltatori e allora io do subito la possibilità ad Andrea da Padova, dalla provincia di Padova. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Cortesia, io chiamavo per le amministrazioni condominiali e le barriere architettoniche. Sì. Le spiego in due parole. Vivo in un condominio di 12 unità. Su richiesta di due condomini è stato installato un servoscala. Sì. Chiariamo che questo servoscala è stato, diciamo, deliberato da un'assemblea che ci hanno concesso appunto questi due condomini su nostra richiesta, dove è stato illustrato il servoscala da installare. Sì, sì. Prima dell'installazione però, a insindacabile giudizio dell'amministratore e del condominio che ha seguito tutta la pratica, è stato cambiato il modello di servoscala, installandone uno molto più invasivo di quello diciamo prospettato in assemblea e che quindi produce problemi anche a livello architettonico, diciamo, all'interno. Sì. Quindi risolve il problema delle barriere, però come decoro però ne produce altre problematiche, e soprattutto anche come ingombro, perché degli ingombri non sono ugualmente superiori. Mm. A questo punto noi, premesso che comunque i signori hanno tutto quanto il diritto di installarlo, certo, ma volevo capire se l'amministratore poteva appunto fare decidere autonomamente. Genere. Allora io girerei questa sua domanda, signor Andrea, al dottor Burrelli per capire un po' se l'amministratore lo può fare e eventualmente che cosa possono fare i condomini a questo punto. Buongiorno a tutti. Il problema delle barriere architettoniche è un problema, diciamo, che era regolamentato prima della riforma, sicuramente con la legge 1389, che appunto consentiva eventualmente il condominio, non desse la possibilità di installare l'ascensore con le relative maggioranze, che quindi in seconda convocazione erano un terzo, lo ricordiamo. Mentre la nuova normativa ammette questo tipo di installazione con una, diciamo così, maggioranza che è diversa, la maggioranza degli intervenuti che rappresentano 501, quindi l'hanno alzata come maggioranza. Sì. Il problema è quindi, questo è un danno, una delle critiche che ANACI fa, che le persone più disagiate, le certo. persone che hanno più bisogno di aiuto, quelle che hanno bisogno di più voce, devono essere tutelate, quindi quelle maggioranze noi chiederemo di riabbassarle per cui in modo che tutti possano tenere. Per rispondere invece alla domanda del nostro e quindi quello sì, ascoltatore. Bisogna tenerlo conto, per rispondere invece alla domanda dello ascoltatore perché sappia come gestire la situazione, è che l'amministratore è un mandatario e quindi i mandanti sono i condomini, quindi lui deve intanto rendere conto all'assemblea di quelle che sono le eventuali variazioni sì. o comunque modifiche di quelle che sono le condizioni iniziali, quindi se il servoscala è stato installato perché allora chi non aveva dato l'autorizzazione ad installare l'ascensore non c'era stata nessuna risposta, diciamo, l'utilizzatore aveva titolo per installarsi il servoscala, ma se il servoscala è cambiato, sono sì, cambiate le condizioni esatto. o si sono alterate le condizioni architettoniche, lui non poteva dare l'autorizzazione senza passare dall'assemblea. In quanto l'assemblea avrebbe dovuto intanto valutare l'impatto architettonico, perché la legge 13 lo dice, quindi io posso installare servoscala, posso installare sì. L'eliminazione della barriera architettonica per arrivare al mio piano, ma tenendo in deroga alle distanze, in deroga a una serie certo. di normative, però tenendo il conto il decoro architettonico. Allora certo. lui doveva farsi ripresentare un progetto velocissimo, anche uno schema, riconvocare un'assemblea dicendo guardate che il tipo di servoscala che c'era non era un servoscala più adeguato, più a norme, era, certo. no, era più rumoroso, aveva tutta una serie di problemi, questo servoscala è diverso, ecco, magari ci sono solo delle indicazioni che dobbiamo dare da un punto di vista magari più ingombrante o magari ha qualche cosa di diverso, ma comunque è l'assemblea che deve decidere in merito alle parti comuni e non l'amministratore, quindi l'amministratore è un mandatario e non deve decidere in proprio, certo, le destinazioni di quello che sono non solo il decoro architettonico, ma soprattutto deve preventivamente dire ai condomini, pur avendo il diritto l'utilizzatore, quindi quello che è il portatore di handicap, perché noi siamo d'accordissimo, ma non solo d'accordo, a dargli tutta l'assistenza possibile, ma a portarlo all'assemblea, perché l'assemblea potesse in qualche maniera esprimere il proprio giudizio, magari anche migliorativo. Roberto dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Dunque, io c'ho questo problema da sottoporvi. Il nostro amministratore usa da sempre non raccogliere deleghe a suo nome, ma passare deleghe da vari molti condomini alla madre, al padre, alla moglie. Quindi in pratica in assemblea tutti quanti votano per quello che dice l'amministratore. Allora, questo delle deleghe è tra l'altro un'ampia problematica che io girerei nel caso specifico al presidente Membri, perché le deleghe in teoria appunto non si possono fare direttamente all'amministratore. Certo che in questo caso l'amministratore ha escogitato un modo indiretto ma efficace. Sì, sono quelle furbizie che possono nascere. In effetti ora fino al 18 le assemblee l'amministratore ancora può ricevere. Sì, però diciamo dalla riforma. La riforma non ci sarà più la possibilità che l'amministratore abbia le deleghe. Poi questo ci rifacciamo al buon senso e la trasparenza della gestione. Certamente io capisco che l'amministratore abbia così qualche tifoso, no? Certo. Però così diventa poco professionale. Ma in questo caso gli altri condomini hanno qualche possibilità, qualche potere per, diciamo, scardinare questo escamotage? No, sono scardinati perché le deleghe sono state date agli altri proprietari. Certo. Di conseguenza bisognerebbe poi non so se scegliere forse un amministratore che non facesse parte del condominio, questo magari sarebbe... Ma anche una soluzione potrebbe essere questa. Daniela dalla provincia di Trieste, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. Allora, ho una domanda sulle deleghe all'amministratore, ho già avuto la risposta. Un'altra domanda è questa, per la revoca dell'amministratore è necessario che tale revoca sia posta all'ordine del giorno quando si convoca l'assemblea? O la si può decidere seduta stante in ogni momento dell'assemblea? Allora, dottor Borrelli, la revoca, come diciamo che anche qui apriamo una problematica che vedo che anche negli SMS è abbastanza seguita. Ce l'immaginavamo che era così. Sì. Posso fare solo un flash certo. Solo a quello che ha detto il presidente. Certo. Assolutamente d'accordo con quello che ha detto il mio presidente. Diciamo ancora una cosa in più. Che l'amministratore professionale, l'amministratore professionista è l'amministratore che dovrebbe avere quei galloni che vorrebbe sempre, avrebbe sempre voluto avere e certo. Che probabilmente potrebbe averceli, c'è un codice di condotta e un codice deontologico che ANACI ha approvato e quindi noi ci siamo approvati anche questo codice di condotta, quindi noi diremo a tutti quanti che questi truscrini che devono essere fatti a bassa plebe lasciamoli agli altri, ma l'amministratore corretto, professionale, rigoroso, che è competente, non ha bisogno di ricorrere a quei trucchetti e dare deleghe a chiunque, perché comunque se lui è bravo, è capace e competente, sarà eletto sicuramente dai condomini senza bisogno di deleghe. Vabbè, questo nel migliore dei mondi, però appunto nella realtà poi queste cose magari accadono e giustamente il signor Roberto ce ne ha reso partecipi. Per quel che riguarda appunto la revoca dell'amministratore, si può presentare in qualsiasi momento, va fatto all'ordine del giorno dell'assemblea? La revoca era regolata in una determinata maniera, era regolata nel senso che ogni assemblea ordinaria che si faceva precedentemente o straordinaria se poteva essere ricorsa in qualunque momento, quindi io aspettavo la nomina e la revoca dell'amministratore al bilancio ordinario, oppure c'era un articolo molto forte che era stato, che era il 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, poi magari glielo dà la ascoltatrice, ci ha lasciato qualche riferimento, oppure si può risentire la puntata dove almeno due condomini che rappresentino un sesso dell'edificio possono chiedere in ogni tempo la convocazione dell'amministratore. L'amministratore deve convocare quell'assemblea entro 10 giorni, quindi la deve convocare e non tenere. Cosa vuol dire? Che se mi arriva quella richiesta con l'articolo 66 con almeno due condomini che rappresentano un sesso dell'edificio, io devo tenere quell'assemblea e magari la posso tenere fra due mesi, ma la devo convocare entro 10 giorni. Se l'assemblea non viene convocata dall'amministratore entro 10 giorni, i condomini vi possono provvedere direttamente a convocarsela. Questo anche se l'amministratore è stato eletto da pochissimo, quindi se anche l'amministratore è stato eletto oggi e dopodomani mi accorgo che mi sta fregando, ci sono vari motivi o questa cosa. La cosa importante però è che a quell'assemblea io abbia poi la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno 500 millesimi, perché altrimenti l'amministratore continua a restare. In più la nuova normativa ha dato la possibilità anche di ricorrere a un solo condomino in caso di malagestio, in caso che non abbia aperto il conto corrente, in caso che non renda conto anche solo di una gestione, che prima questo non era dovuto. Prima si poteva rendere conto, potevo richiedere la revoca alla giudiziaria solo ed esclusivamente se ci fossero almeno due anni che non avevo il rendiconto, invece in questo caso anche solo con un anno è possibile e quindi lo può fare anche solo un condomino, anche se io non apro il conto corrente. Quindi direi che c'è un maggior potere da parte dell'utente, che può non in qualunque momento, e quindi nell'assemblea non lo può chiedere. Quindi l'amministratore, se a me non va bene a convocare l'assemblea, in quell'assemblea non c'è all'ordine del giorno l'amministratore, almeno due condomini che lo chiedono in assemblea glielo fanno mettere alla prossima ordine del giorno, quindi da lì scattano quei famosi 10 giorni detti in quell'assemblea per andare a fare riconvocare l'assemblea all'amministratore. Quindi per chiarirci, se io in assemblea arrivo e non c'è all'ordine del giorno l'assemblea, io e la dottoressa Valeri decidiamo che noi due condomini che rappresentano almeno un sesso siamo contrari alla nomina e alla revoca dell'amministratore, ma non c'è l'ordine del giorno, facciamo mettere a verbale, quello gli serve come richiesta certo, successiva, perché da lì scattano i 10 giorni che lui deve riconvocare un'assemblea entro 10 giorni. Perfetto. Con la riforma del condominio diventa paradossalmente più difficile approvare interventi mirati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante si parli di un quorum agevolato per determinate innovazioni, considerate di interesse sociale, compresi gli interventi di questo tipo, il quorum necessario aumenta rispetto al passato, passando da un terzo alla metà del valore dell'edificio, e quindi 50% dei millesimi e dei condomini, mentre per le altre innovazioni è generalmente richiesto un voto favorevole corrispondente ai 2/3. Sul fronte delle barriere architettoniche si registra quindi un passo indietro. La motivazione, maturata nel corso dell'esame della riforma alla Camera, sarebbe quella di evitare che una minoranza possa imporre a una maggioranza poco partecipe interventi di questo tipo. Di fatto, però, si complica la vita a chi cerca di rendere la propria casa accessibile in relazione alle proprie capacità motorie o sensoriali. La seconda delle nostre schede ci ha aiutato a capire il punto che era stato sollevato poco fa dal dottor Burrelli, e quindi quello relativo alle barriere architettoniche. Giovanni dalla provincia di Ravenna, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e ai radioascoltatori. Ci dica. Volevo porre questo quesito. Io sono condomino di un condominio di 16 proprietari. Sì. E sono anche l'amministratore in maniera gratuita. Sì. Volevo chiedere, la riforma prevede delle nuove disposizioni rispetto a questo status? Oppure è necessario ricorrere a un professionista? Allora, che dobbiamo regolare? Giriamo subito la sua domanda al presidente Membri. Che cosa succede per questo condominio? Niente, perché gli amministratori che sono proprietari in un fabbricato possono amministrare derogando dai requisiti che devono avere gli altri professionisti. Allora, a questo proposito io giro anche al presidente Membri alcuni sms, perché è giusto dare spazio anche a chi ci scrive al 349-238-6666, che ci chiedono gli ascoltatori, ad esempio, che cosa succede in una palazzina di 4 unità, se è obbligatorio o meno eleggere l'amministratore, oppure che cosa succede per quei condomini con meno di 8 condomini che prima erano tenuti ad avere l'amministratore. Che cosa succede per questi condomini che, diciamo, sono più piccoli numericamente? Dunque, succede se i quattro condomini che non vogliono più avere un amministratore, non è più obbligatorio appunto averlo e pertanto possono amministrarsi anche direttamente. Questo fino a 8 proprietari, cioè 8 proprietari vuol dire anche più di 9 di 8 appartamenti. Cioè l'obbligatorietà dell'amministratore scatta dopo i 9 diciamo, appartamenti di una palazzina, anche se su questo versante la NACI ha battagliato, non perché vuole diciamo, battagliare, ma motivando che in una palazzina di 9 appartamenti già esistono tutti i servizi diciamo tecnici del fabbricato, cioè ci potrebbe essere la centrale termica autonoma centralizzata, l'ascensore, e pertanto ci deve essere il responsabile che gestisce questi impianti. Non prevedendo obbligatoriamente succederanno delle cose che magari potremmo pentirsene più avanti. Certo. Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda, spero breve e chiara. Ci dica. Allora, io ho una taverna di cui entro direttamente dalla taverna con il garage, quindi è sotto un piano del piano terra, diciamo. Sì. Allora, succede che a maggio di quest'anno hanno fatto un'assemblea, l'ascensore c'è sempre stato, arriva anche in taverna, devo dire. Sì. Però io non lo uso mai, e hanno deciso che anche quelli delle taverne, io della taverna dovrei pagare le spese condominiali. Volevo sapere se è vero che le devo pagare nonostante io non lo usi, anche se ho l'entrata a piedi, potrei usarlo ma non lo uso perché è scomodo. Sì. Però io generalmente entro dal garage. E se devo pagarle anche del 2012 e del 2013 che hanno deciso adesso a maggio che io debba pagarle, prima no. Allora, io giro il suo quesito al dottor Burrelli, anche se credo che la risposta sia affermativa, che il signor Maurizio debba pagare. Ma non è stato chiarissimo e non ha detto cosa prescrive il regolamento di condominio, quindi come è indicata quella taverna all'interno del regolamento di condominio, quindi bisognerebbe vedere se è già diciamo millesimata all'interno del regolamento condominio o se non lo è, ma se è parte integrante del condominio e non ha mai pagato le spese, comunque prima cosa vedere il regolamento di condominio cosa dispone, e seconda cosa comunque in base al 1123 lui qualche cosa deve pagarla, quindi certo. Le spese si pagano in base al diritto, al criterio che io utilizzo, e quindi andare a vedere un attimino, prima vedere esattamente cosa dice il regolamento di condominio a quel proposito, e secondo non è tanto quello che decide l'assemblea, ma quello che dice a proposito in che contesto è nel regolamento di condominio. Se quella taverna è sotto un'unità immobiliare che però io non la uso, non ha nessuna importanza, anche se io non la uso, però è parte integrante del condominio e certo. La devo pagare sia di conservazione che di mantenimento della spesa. Poi possiamo anche derogare magari qualche piccola spesa che forse non è dovuta, magari all'ingresso delle scale, o magari nelle scale devo pagare il 1124 perché utilizzo solo l'androne, utilizzo solo la parte comune dell'edificio, però prima vedere cos'è il regolamento di condominio e poi dettagliare meglio la richiesta. Senta, dottor Burrelli, però mi sembrava interessante anche la seconda parte del signor Maurizio, cioè se dovesse pagare anche le spese relative allo scorso anno e per quest'anno, visto che sono state deliberate adesso a maggio. Allora, intanto le spese che l'Assemblea delibera dovrebbero essere da oggi in poi che le delibero e non retroattive, perché retroattive poteva anche essere che quelle spese erano a carico di qualche altro, perché magari io l'ho preso quest'anno. Quindi secondo me la delibera vale da oggi che ho deliberato in poi e non è mai retroattiva. Non è retroattiva, questa è la prima cosa da verificare. Io però farei un consiglio che do al signor Maurizio, è quello di dirle valutare molto bene il regolamento di condominio, verificare molto bene cosa è stato deliberato nelle assemblee e nelle precedenti assemblee, guardarlo molto bene col suo amministratore se è competente o meno, se no con l'aiuto di un legale valutare bene tutta la diciamo così l'organizzazione, quindi tutti i parametri che ci sono per vedere se è stato commesso o qualche imprecisioni da parte dei condomini che vogliono magari fare qualche delibera che magari non è neanche forse annullabile o comunque magari non è stato tutelato qualche diritto, o può darsi invece che è stata una svista dei precedenti amministratori e mai se ne sono accorti e questo amministratore è più diligente e magari ha visto che invece quelle spese vanno pagate, però la somma di questo va controllato bene in modo che non ci siano né pregiudizi ma soprattutto il rispetto delle regole nei confronti di tutti. Certo. Le 12:47 minuti, stiamo parlando della riforma del condominio. Buongiorno a Enrico dalla provincia di Firenze. Buongiorno. Ci dica. Io ho una parziale risposta alla domanda per la quale avevo chiamato. Sì, l'ho già avuta. In precedenza, cioè in relazione a quello che è la possibilità da parte di un solo condomino di, diciamo, di disdettare, se così si vuol dire, un amministratore. Però ecco, mi chiedevo se non ci fossero certi paletti in questo senso, o se qualcuno che si alza con una per traverso ogni mattina, perché è stato il caso ad esempio nel mio condominio, dove qualcuno che non si vedeva fare dei lavori che aveva richiesto, sì, anche perché è l'unico a volerli, e non possa farlo, ecco, anche soltanto per queste ragioni. Cioè, diciamo, per una sorta di ripicca. Una specie di ripicca. Poi coglievo l'occasione, ecco, in relazione alla seconda scheda, sì, che dalla quale è emerso questo assurdo per cui ora ci vuole un quorum più alto per avere le sì, tutto quanto serve per abbattere le barriere architettoniche. E dispiacermi, tutto sommato, se mi si concede questo gioco di parole, la cecità dei legislatori che sono troppo spesso sordi di fronte a certi problemi. Allora, signor Enrico, sicuramente possiamo condividere questa sua osservazione. Prima erano gli stessi nostri interlocutori, i nostri esperti a evidenziare quanto sia poi stato aggravato, insomma, in questo senso l'onere a carico di chi le deve rimuovere queste barriere perché ne ha un assoluto bisogno. Però per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, cioè la eventuale richiesta di sostituzione dell'amministratore, diciamo così, per una ripicca da parte magari di un solo condomino, vogliamo, presidente e membri, ricordare però quali sono le condizioni, perché poi ci vuole una parte dell'assemblea che sia concorde su questa richiesta. Certamente, addirittura devo dire che un solo condomino può chiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca di un amministratore, sì, ma se poi, diciamo, l'assemblea lo conferma, le spese dell'assemblea sono a carico di quel signore. Quindi, insomma, non è così poi semplice, così facile, certo, il percorso, certo, giustamente, anche perché poi si potrebbero anche creare casi come questi in cui non è limpida neanche la richiesta di rimozione dell'amministratore. Stefano dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, dunque, la riflessione che facevo era che questa riforma evidentemente qualifica e professionalizza la figura dell'amministratore di condominio, quindi pensare ad amministratori così improvvisati, anche sì, se per comodità, perché all'interno della propria unità del condominio possono improvvisarsi anche in questo settore, a volte diventa, per gli adempimenti che sono a suo carico, diventa anche abbastanza difficile. A questo proposito io sono presidente di un'associazione dei committenti e mi riferisco al testo unico sulla sicurezza sui cantieri, che sì, spesso mette in capo agli amministratori di condominio, che sono committenti di fatto, sì, degli adempimenti e degli obblighi che sono molto complessi. E molte volte anche così nei programmi che le varie associazioni, ma in particolare le associazioni che poi dovrebbero fare la formazione, questi amministratori, sono un po', diciamo, deficitari. Ecco, quello che noi chiaramente stiamo facendo anche sul nostro territorio è quello di cercare di sensibilizzare anche attraverso informative molto semplici, cose che evidentemente anche le istituzioni dovrebbero fare e non fanno, sensibilizzare la figura dell'amministratore su quelli che sono gli adempimenti a carico loro e che vanno, certo, a tutelare chiaramente i condomini per quello che riguarda la sicurezza sui cantieri. Assolutamente. E gli interventi di manutenzione sono tantissimi, la nomina dei coordinatori sui cantieri piuttosto che le notifiche preliminari. Spesso questi adempimenti sono un po', diciamo così, lasciati in maniera marginale. E allora, fare qual- qualcosa di più. Di più. Grazie signor Stefano per la sua osservazione e oggi avremmo dovuto parlare anche di sicurezza, di tutti gli aspetti legati alla sicurezza, ma il tempo a nostra disposizione sta scivolando via molto rapidamente. Allora io voglio dare spazio anche a Francesco da Milano. Buongiorno, benvenuto, le chiedo di essere rapidissimo. Sono rapidissimo, per favore. Io vorrei chiedere al signor Burelli se in un condominio di 80 persone e facendo installare dei contatori a mie spese naturalmente, e se posso consumare i litri dell'acqua a me che io consumo. Allora, cioè io, se ho capito bene la sua domanda, lei vorrebbe che ci fosse un controllo più approfondito su chi consuma più acqua rispetto ad un altro. Ecco, sì. Ecco. Però automaticamente... Attraverso dei contatori. Ho capito. Sì. Allora, giriamo la sua domanda al dottor Burelli. Se mi dà un flash un minuto, volevo rispondere anche alla prima domanda del signor Stefano, che mi dà proprio la possibilità sì, di dire. Però le do 30 secondi invece di un minuto. 30 secondi. Sì. Allora, la NACI sta facendo dei seminari per tutta Italia per quanto riguarda la sicurezza, quindi siamo sufficientemente informati, si può prendere le relazioni che sto portando avanti per tutta l'Italia sulla sicurezza e quindi sul responsabile per nome e conto committente, il coordinatore della sicurezza, la DL, le responsabilità della sicurezza sui vari cantieri, quindi la sicurezza elettrica, l'omologazione delle macchine eccetera, quindi noi abbiamo degli incensi periodici sulla nostra rivista, in questo numero c'è il Duvri e c'è la valutazione del rischio, quindi questa roba siamo sufficientemente sensibilizzati e abbiamo la possibilità e stiamo battendo tutte le provinciali italiane proprio per dare questa sensibilità in base all'81. Per dare gli strumenti, certamente. Veniamo alla domanda del signor Francesco. Invece la domanda del signor Francesco, allora la prima cosa che bisogna vedere nel regolamento del condominio cosa è previsto per la ripartizione dell'acqua, perché se è previsto qualcosa contrattualmente bisogna adeguarsi a questo, non credo che si possano imporre i contatori dell'acqua, però se siamo d'accordo e si possono, diciamo così, installare tutti i contatori dell'acqua all'interno delle unità immobiliari, sicuramente è un vantaggio, però i rischi sono tantissimi, perché in molte unità immobiliari non ci sono solo una colonna di adduzione nella unità immobiliare, magari ce ne sono più di una, quindi magari non basta un contatore ma ce ne vanno due, quindi capisci che può diventare complicato, perché io magari prendo praticamente solo una parte dell'appartamento e non la seconda parte, quindi lì bisognerebbe fare prima una mappatura delle colonne montanti che ci sono all'interno del condominio, verificare che tipo di ragionamento si può fare con le varie unità immobiliari dove sono posizionati i vari contatori e quanto costa, perché se le colonne sono tutte incassate vuol dire anche spendere dei soldi, spaccare degli allora, appartamenti. Allora, la devo fermare, dottor Burelli, perché il tempo a nostra disposizione sta andando via rapidissimamente, quindi io ringrazio i nostri ospiti, il presidente nazionale della NACI, il dottor Pietro Membri, ringrazio Francesco Burelli che è vicario nazionale della NACI e ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Salva Danaio.